naturale non è ancora applicata. Come si fa a fare il centurio un rubio, un divertimento? Non è manco un porto d'arme. Ma cosa costa la taglia di porto d'arme? Quello sportivo 70 euro. Quello per andare a caccia ci vogliono 400 euro. Direi no, quasi di te la taglia. Io che volevo rinnovare del tutto ce ne vogliono 700, con tutte le visite, le cose, le malattie varie. Oh my God. la bottiglia. Certo che 102 euro sono pesanti. Per fa 100 euro non ha senso. senso, perché i 12 euro servono per pagare le spese dei controlli di queste persone dell'Expo, queste cose del genere, forze dell'ordine, per pagare gli stipendi a loro. Cioè, tu hai pubblicato la tassa, la 12 l'hai portata a 100, non ha senso, cioè non è giustificabile. Finché mi dici ti permettiamo anche di utilizzare, non so, un'altra cosa, di fare, qua non c'è niente di più di quello che stavi facendo prima. Dicendo, però cazzo, mi pare un metro una cosa, cioè, ci ribellerebbero tutti, poi se noi facciamo le regalature da 15 euro che pagano o 5 euro che pagano, adesso non mi ricordo quanto la tassa, e a parte da 300 euro, allora niente, i problemi ne vendono di tutto. Sì, infatti, le regalature hanno sempre pagato meno di noi, cazzo, ce li altri a 300 euro, o ne vedi niente, cazzo, hanno venduto di tutto. Sono partito. Scusate, così per passare. facevamo le prove a vedere chi pompava di più. Vabbè, tu hai attacca di nuovo. Come hai attacca di nuovo? Cosa devo attaccare? Ma sai già, abbassa un peluzzino per parte troppo forte. Come ho fatto il ricordo, ecco, per gli altri non è normale, paghi normale. comunità, beh, io ho pagato 25 romani da voi. Tanto mi dice, devo pagare l'aumento, lo pago. Ma questo porto antico avrei fatto pagare 1000 euro, soltanto per toccare quel microfono. Scusatemi, no, non riesco a capire, io non lo sento, vero, neanche si muove la lancetta. Possibile che sia così forte questo? Per forza, se il bastardo è qua, senza antenne, senza niente, come fai a sentirlo? Senza antenna si brucia l'apparato, cioè deve avere almeno uno spezzone di fiamma, qualche cosa. Un pezzo di briascio che riponga un po' di sanguinaggiare, ma... Guarda, tu già lo senti questo portantista? No, io non l'ho sentito perché forse l'ha messa quando stavo parlando io. E allora, l'ho messa proprio quando parli tu. E dai, ma che cosa ne avete? Già stai parlando, non aveva Olbia. Ma le faccio vedere mia moglie, vuole la musica in macchina, non mi ricordo se lì. Me l'ha fatta, cioè me l'ha fatto, l'ho acceso vicino a provare quando stavo tornando, tanto so che da lì è il punto strategico, dove arrivano tutti. Ma non c'è da saccarci, non ve la riusciamo, voi l'ho già presa a provare e poi alla fine a muro, visto che non c'era riuscito, ho spento tutto e gli ho riattaccato lo stereo. Bene, dai. Avanti, c'era Natali dopo, Natali. Andate su 19 ore, che però non dove parla questo scemo. Adesso mi è sembrato di aver sentito qualcosa, in questo momento la prima messa la portate a tu. Gente sotto, basta basso. 900 no, andate su 19 alfa. La, hola. Siamo. Gappa, allora sono da cagare. Ma stavo parlando quando ho parlato io, sentivo basso basso una cosa sotto, ma stava dicendo qualche cosa. Auguri, ma niente, non c'era campo lì dove c'era il concerto, dov'è che roba? Ma c'era la camera della Pausini già. Allora. Biliardo. Perché la verità, mia moglie, mio cognato, altri due amici nostri, sono voluti rimanere lì, io ho portato via a macchina perché aveva sonno, ci siamo messi in macchina e stavamo aspettando allora, abbiamo detto che eravamo dove avevamo lasciato la macchina, quindi eravamo d'accordo lì, dovevamo venire lì. Si sono tornati come pulcini, le ultime due case come dice che le ha crepate, comunque l'ha fatta tu quella che hai detto tu, Gianni, già lo so che le pago le canzoni. Fatta, l'ha fatta, c'era un po' di gente embriaca, gente fumando spinelli, perché c'era l'odore che ti crepava, e insomma un po' di tutto. Questa ragazza mi è caduta addosso imbriaca, poi c'è stato un accoltellamento dopo che è finita tutto l'ambaradan, c'è stato un accoltellamento a uno di Lodeano, l'ha accoltellato. Già ho sentito già in televisione. Oh Gianni, ma te l'hai iniziato e te l'hai finito il concerto? Iniziato a mezzanotte e 5, no, mezzanotte e 10, un quarto, no, aspetta, lascia così, allora, ma fino a mezzanotte e mezzo c'era il fuoco artificio. Dopo mezzanotte e mezzo, ha cominciato il concerto, si hanno acceso le luci e si è detta lì che stava entrando. E poi è finita alle 2. Ah, io pensavo iniziato verso le 9 e mezza, 10, ma va a finire per i fuochi a mezzanotte, invece no, prima è iniziato la musica della mezzanotte, non lo sapevo. Comunque ho sentito, ma sta dicendo mio cognato, che lei era forse fino all'ultimo momento che stava male, era mezza influenzata, non so se ve ne siete accorti voi, ma anche mio cognato stamattina mi ha detto che il concerto era in dubbio fino all'ultimo momento. No, non siamo così detti, a parte il fatto di come era vestita, che ti sembra cuccata. Vabbè. Comunque è entrata parlando bene della Sardegna e ha finito parlando bene della Sardegna. Ha detto praticamente che lei adora la Sardegna, anche perché il suo ragazzo è sardo. Sì, non so che è sardo, infatti mi sembra che non abbia messo parlato male della Sardegna. No, ha parlato benissimo. Ha detto che siamo in tanti, che siamo caldi, vabbè lo dico tutti per accascettarsi il pubblico. Tu hai detto all'inizio, appena iniziato parlando male della Sardegna, ha finito parlando bene, non hai detto così tu? Ma io ho detto, ha iniziato parlando bene e ha finito parlando bene, non ho detto male. No, ho capito il contrario, come mai? Cioè, c'era un visto innussato, lei, a parte che non è tipo che parla male, è una tipa molto umile, mi sembra anche abbastanza sincera, nelle interviste l'ho sentita parlare, è una tipa veramente, a me le piace non da adesso, da sempre, alla Pausini mi è sempre piaciuta perché è molto brava, pur essendo famosa in tutto il mondo, non è mai pompata come certe persone che vediamo, quattro gagarioli che vengono due mesi rischi e diventano subito dei VIP delle star, secondo loro, non secondo lui. Però è veramente brava, a me piace tantissimo. Soprattutto la ragazza molto profonda nei sentimenti. È già un grido. E com'è il concerto? Non tanto lei, dico, la musica bella, si sentiva bene. E lo grido, sono bene. Quello di il palco che ti spaventavi, era enorme, è un palco enorme c'era. Oh, grandissimo, ti sto dicendo una cosa che non finiva più. C'erano addirittura 3-4 tir per tutta la strumentazione. Sì, sì, cosa volevo dire? Ma lei era coperto, non era, non si bagnava lì. No, lì no, non era, non si bagnava. Ma intanto c'è questo qua che la gente anche se pioveva si sarebbe andata lo stesso, non c'era problema. Mi hanno detto che questo amico di mio cognato mi ha detto che è passato alle 4:15 di sera dopo pranzo e ha visto quattro ragazze con lo striscione andando a prendersi il pilipus. Figurati, quanta gente c'era? L'hanno stabilito più o meno. Non lo so, so solo che per poco mi ha fatto con uno perché stava schiacciando a Marco. C'era Marco e questo qui, non so se era cotto o che cosa, gli stava andando addosso da 3 ore. Il bambino si è lamentato che non riusciva a mancare a respirare, gli ha detto ascolta, me la fai la cortesia. Ti metti bene che il bambino non respira così, non ti accorgi che lo stai pressando. Sì, 3 ore così, o ti metti bene tu o ti faccio mettere bene io con la forza. E dove è stato zitto? No, l'amico mio, no, l'amico mio, dove esci di sassi, non lo so. Metto l'amico mio, dai, non ti arrabbia che non si può venire arrivare, non mi sono capizzato, ma dico. Ah, lui sì, Ma secondo te l'embriaco che ti capita già lì, il problema è se trovi male l'ubriaco, che sono male in Grecia, cose così, si girano e si tocca, non dico compromettere, ma mi sperare che non sia né gente fuori di testa, mi stai dicendo se è stato un accoltellamento, magari lo dice a qualcuno che dico io delle zone interne, che sono la prima. Scusa, io sono il padre, proteggo mio figlio, non ho capito, si vede chi c'è, così avanti, mi dici bravo che c'è chi c'è da mio figlio. No, non hai capito. Ho detto, fortunatamente hai trovato questa persona che ha risposto a modo. Fai conto che era un embriaco, uno che tu gli dici così, uno di che ci hanno coltello facile, dice, cosa vuoi? Stai, se ti hanno avuto che ti fode un colpo, cosa dici tu? Bisogna vedere se mi avvalli. Comunque hanno accoltellato uno, hanno tirato un petardo addosso alla ragazza ed è svenuta. Cioè, in mezzo al pubblico questo qui l'ha lanciato il petardo, che bastardo. Adesso tipo quando c'era il concerto di Vasco Rossi, te lo ricordi tu quando hanno iniziato a volare lattine da tutte le parti? Io ho visto anche un boccione di vino volando, che mi ha preso in faccia in pieno una ragazza. No, non l'ho visto quello lì. Ma in pieno, proprio in faccia, non so se le abbia rotte dentro, perché il sangue è andato. Ha iniziato a tirare lattine di Coca-Cola, prima di birra, poi tutto quello che c'era. Ho visto questo tipo si è girato, ha preso un boccione di vino, mezzo vuoto, l'ha preso e l'ha tirato in mezzo. Così a casaccio. Beh, tu pari bene, sono con i bigliacchi. Fare bene. Se non lo presenti era una guerra, dici che coprirti tutti i dovevi nascondere, abbattere la testa e metterti la testa in giù, se no se ti bilano a capo, ma se non c'erano 50-100 lattine vanno da una parte all'altra. E tu dove l'hai visto questo progetto Vasco Rossi? Dove l'hanno fatto? Qua a Sassari, a Coso, al... come si chiama? Allo stadio. No, Vasco Rossi fa spettacolo, quello che vuoi, però c'è troppa gente delinquente in quel concerto lì. Gente che, boh, anche quando è andata la mia collega, è andata a Bologna, lo stesso, sta fatta a Bologna. A parte che anche se non fumavi Spinelli ti stavi drogando, perché erano tutti con lo Spinello in mano, che fumava anche per fumare. E poi un casino è successo, azzuffati. Lattina, lo stesso come hai detto, tu, bottiglie, di tutti i cini, di un casino, perché si imbriaggia, ma comunque c'è gente imbriaca a venire a pulire a Kiwi. E poi ti fai l'artigia anche per freddo, di qua sto parlando d'estate, era periodo estivo, sarà stato giugno, luglio, Vasco Rosso, così l'altro concerto, un momento di carriera di, non ci viene più, ah, di cosa, di Mattiato che ha iniziato a tirare uova nel biglietto della batterista a Buro, ogni che fa ha detto mai più ci verrò in Sardegna. Grazie. Hanno fatto il mio favore, Bacchetta è una persona che piace moltissimo come cantante. Vabbè, comunque, fatto sta che niente, ti devo dire che la cosa che mi ha colpito di più, cioè i fuochi d'artificio erano bellissimi, tutto quello che vuoi, che a mezzanotte non hanno fatto nessun tipo di casino a Urbia, sono freddi come il marmo d'inverno. Vabbè, c'è da dire che tutto il paese era in chimica, magari in casa non c'era nessuno, sicuramente è così. E poi di più, un concerto del genere, di quelle... in Italia non ne hanno fatto neanche uno a quel livello. Cioè, se tu guardi tutte le città d'Italia, hanno fatto la televisione, quello di Udia, l'altro proprio al telegiornale, a Udia c'è Laura Pausini, Laura Pausini è il numero uno, mi due ti venga Michael Jackson a Milano, cioè fa venire Laura Pausini, è l'artista numero uno in Italia in questo momento, è il numero uno nel mondo di artisti italiani, degli artisti italiani, non ce n'è per nessuno. A Cagliari a Baglioni non si sarà andata la gente che è venuta per Laura Pausini. Lo so, sono venuti dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania, l'ha detto quella dell'albergo, non lo sto dicendo io, che c'erano tedeschi, inglesi, spagnoli, francesi, di tutto. E nulla, al momento degli auguri mi ha colpito, ci siamo fatti gli auguri solo io, mia moglie, i miei amici, tra di noi e via. Non ho visto gente che si faceva gli auguri, non ho visto una bottiglia di spumante che stappava il tappo come faceva la Sassari che buttava i petardi, stappava tutti lo champagne, tutti facevano due, uno, due, e tutti insieme scoppiavano lo spumante. Tutte queste storie non le ho viste, c'era una freddezza, sembrava di essere in un iceberg, veramente, una cosa che mi ha proprio un po' disgustato, pensavo che a mezzanotte di quasi che ci fosse qualcuno magari che contasse la rovescia o roba del genere, sai come si fa per creare il suspense e cose del genere, ma una cosa stranissima, vabbè che si sa che io mi soffro di come di iceberg. Andare, per pace. Guarda, adesso sono centrato perché qua mi devo spostare col driver di legge. E però devi spostarsi. Spostati per pace. Spostati per frequenza, non forse non sei. Noi siamo su un canale alfa, 19 alfa. Infatti sto dicendo se sono centrato perché qua devo andare col driver. Ma che ci sei tu? Non sei centrato. No. Tu già hai detto che vi viene a vedere a baciarti, così è. Guarda, io sono andato una volta a uno di questi concerti in Piazza d'Italia e si baciavano tutti, anche la gente che non si conosceva, c'era un calore umano che era una cosa da tagliare a fette e lì non lo vivo qua, ti dico una persona avessi facendo gli amici, sono girato attorno, ma se non è possibile che sia così, boh. Vabbè, purtroppo ci sono altri generi di cose, di persone. Questo 27195, nel coso del malacchino, quel mobile con Peciullo non c'era questa frequenza. Andalo via. No, c'è 5 bande quel malacchino, però non c'è. Ho provato a vedere, vabbè, non sono salito su tutte le bande, però non l'ho visto almeno altri macchini. 27.185. Vabbè, 185 è 19, ma il canale alfa è 10 km più avanti. Infatti, è alfa per quello. Perché ho un altro canale alfa, che cos'è il 23 Natalia o il 12, cos'è? 22 alfa, c'è il 7 alfa, e ce ne sono canali alfa. Allora, visto che non mi avete fatto cercare, uso questo, cambia! Tutto lo stesso, per Paolo, forte chiasso qua, col baracchino tutto rovesciato, la rovescio, cappa. Così mi faccio la legge. grazie. Una grappola ad attaccare, dobbiamo fare. Ola, ola. Yeah, il canale Alfa, anche di più, vero? Tremende quell'antenna, perché la camion non è neanche la macchina. Allora vedi che le cazzate le dici tu, Antonio, l'ho detto io. Le cazzate le dici tu perché tu non mi hai lasciato finire di parlare. Gli stavo dicendo che c'è la barra agricola, lì vende ma fino a un certo punto l'antenna. Al centrocampo ti rende di più, anche davanti, rende di più che dietro. Oggi Mazzenti è del foro, verrà già a Barizzo, verrà, un crisolare, e già vende lo stesso l'antenna, chi l'ha detto non rende. Perché Luigi Vulcano ce l'ha sulla stampa, non è piazzata neanche sulla cappottata articolata, è sopra una stampa e l'antenna. È la staffa dove fa massa, secondo un capodio, lo fa di andare la cabina, e quindi la massa della cabina, no, è tutta la cabina. Ma ti rabbini in come ti possa mai, anche che andò a buono da rito, non fasi massa quella cappotta, ma stessi. Cazzo, solo che piazzata in una staffa rende di meno, se mi permetti, no? Però cazzo io lo sento scendendo la buonorba, e lì sul discorso. No, è lui che non sa parlare, non sa discutere, grida sempre, non sa affrontare un discorso senza gridare. Natali, è un discorso vasto quello di sentirlo da Bonolva, è un discorso molto vasto che non voglio fare qua, te lo facciamo in verticale magari. Vabbè, come vuoi tu, io ti sto dicendo che gli rende lo stesso anche dietro l'antenna, perché quella è una 2001 e rende. E ti sono convincente che lo intendi, ne danno da tutte le parti, lo sentono. Non è problema. E se no la prepaga la Simbia, fermo. Sopra di dubbio lo sento, non c'è problema. Non rende come dovrebbe. Lo sentono, non è che non lo sentono. Comunque in ogni caso si deve mettere o un rondellone oppure una piastra di piattina che tenga bene sotto, perché quelli sono antenne pesanti. Quello gliel'ho già detto io. Quando si sposta, Gianni Natalino, quando si sposta, se capita vi faccio vedere un libro di antenne, quando si sposta il centraggio dell'antenna, il piano di radiazione, il piano di massa, diciamo, l'antenna diventa più direttiva. Se tu la metti sul parafango anteriore, l'antenna funziona perfettamente, però ti dà una predominanza di radiazione verso quella direzione in cui l'hai messa. Per cui anziché è omnidirezionale a 360 gradi, il fascio di radiazione allora diventa un po' più direttiva, per cui verso nord, per dire, c'avrai il 100% del segnale, posteriormente l'80% lateralmente il 20%, cioè una riduzione di radiazione, cioè anziché avere 360 gradi di radiazione avrai un'antenna non completamente omnidirezionale. Tutto quello che vuoi, ma a lui non gli interessa parlare con New York, gli interessa parlare al Ghero, Porto Torres, Sassari e Bu, quindi la perdita è minima. Ma se lui prende l'antenna, per dire che c'è la piazza dei segni, riesce a sentire al Ghero, sì, va appena la macchina e non ha processo, per parte se non lo intendi tu, quello che ti voglio dire, non hai le performance ideali. Non lo so, ma chi è che ce la buca al centro cappotta? Solo un pazzo se la può bucare al centro cappotta la macchina. Tu stai offendendo, Natale, perché l'ho bucata al centro cappotta e lo succubazzo? Anche io se per quello ce l'avevo bucata al centro cappotta quella visa, te lo ricordi, c'era la cigma di Ex attaccata al centro cappotta. Ma non ne buco più in chili, tutti la riamattere per esempio l'antenna bibanda, ce l'hanno dietro tutti. Ah beh, ma io della macchina mia posso fare ciò che voglio, non è che devo chiedere permesso a nessuno per bucarlo. Io l'ho bucata, ce l'ho 5 anni bucata, non ha mai bidato ruggine, non ha mai bidato ruggine, quindi vuol dire che il lavoro è stato fatto bene. No, quello, tutto quello che vuoi già, però la macchina perde il valore quando è bucata al centro cappotto, lo sai? Intanto me la devo tenere io fino a quando campa, quindi già me la frega il valore. Me la devo tenere io, me la personalizzo come voglio. Ehi, tutto quello che vuole ognuno del mezzo suo ne fa quello che gli pare e gli piace. Io per esempio non ne ho bucato, io l'ho messa nel buco della radio, lo stesso, proprio per non bucarla. Figurati un po'. Vabbè, ho deciso di fare così, ho fatto così, mi rende, mi dà soddisfazione. Da nulla, sono arrivato quasi 9:20, capo la sassa, e non lo so. Tu chi subi voi, ma a me intanto in macchina non mi interessa imbattere più di tanto, perché cazzo ti interessa la città e zone limitrofe e basta, in macchina, cosa c'è in chi è tra la ronda? Ok. Dimmi. Ma tu adesso che antenna c'è nella macchina tua? No, io ce l'avevo, l'ho prestata, non me l'hanno restituita. Ah, non hai niente, no, io pensavo ci avessi un'altra antenna e volessi solo fare delle prove. No, no, no, vabbè, sai come vuoi. Io dico che è molto pesante come antenna, sicuramente c'è rischio che ti puoi creare dei problemi. Comunque, ognuno fa quello che vuole. Sai, fatto soprattutto che ce l'aveva nel furgone, se nella gavarda, e il furgone, la capota magari c'ha dei rinforzi superiori a una vettura, perché è molto rigido il tetto di un furgone rispetto alla vettura. Comunque, ognuno fa quello che vuole. Stai attento quando entri magari a piazzetta, che o sia te ne tracci tutto quanto. No, non entro in piazzetta io vado nei luoghi dove non ho solai da toccare, capito? Infatti, e poi basta togliere la lanterna, c'è il maniglione, svitti quello e nella togli se devi entrare in posti bassi. Prima di entrare in posti bassi nella togli, molto ci vuole. Infatti, costa molto, no? La svitti, la togli e poi la rimetti quando esci da posti bassi, no? Tu la tua viene bene perché essendo dietro, pigli, ne attacchi in presa, devi mettere la bonnetta alla macchina, come faccio io. Oh, ma poi io non faccio le cose, come ti diciamo, ma il turbo 2001 e 5000 e niente, non posso caro. Ma faccio anche Santemino che mi ha dato un attalino. Se devo molto caro, in basso, cambio farendo ma te si. Sì, infatti, non c'è problema. Io gli sto dicendo che la perdita è minima. Ma la buona davanti, non di cazzo di inviate l'antenna la buona. Non hai buttato questo centro cappotto, ma il centro cappotto è logico che rende il massimo dell'uomo di destino ritaccia. Però se la metti dietro non succede niente, no? Non è che no, che più di questo tutta questa cosa, no? Dietro stesso, come ce l'ha attaccata lui, c'è una tappa in ferro lì e l'ha attaccata lì l'antenna, Luigi Vulcano. Molti camionisti addirittura attaccano per la tappa di lo specchietto, tutti vanno a bucare la cappotta, chi un camion lo usuio. Molti camionisti la mettono le strutture a tagliare, attivare il coso, come si chiama? Lo spoiler sulla cappotta è resina, o fatti in resina dove non c'è massa, per cui devono portarsela in un posto dove ci sia del metallo per fare la massa. Comunque io mi devo montare una cubica con il rotto dell'antenna, come posso fare per mettere una multiplare a tagliare? Ah, te lo dico io, l'attacchi a dietro nel coso, come si chiama? Mi fai una staffa che c'è da dietro, il buono rubare, da voi, lui mi raccomando che si rientra al vento, ma gira la gubica, tipo girata la gubica, no? Quindi vuole motorizzata. Ma la Massimiliano, avete visto dove sta messo le antenne? Oltre che sulla cappotta, nel cofano di dietro se le attaccate due. No, quelle cose, non ti diciamo, quante antenne va a barra agricola nella macchina? Massimiliano sta parlando, dietro ma appunto come la tua, c'ha due antenne sul cofano. Massimiliano sì, Massimiliano c'ha un sacco di antenne, già l'ho visto nell'appunto. E qui ce l'ha sulla cappotta, ne ha due sulla cappotta e due sul coso, ma di fare dei Vodafone quando fanno le prove per i cellulari per vedere i punti di ricezione come sono, scrivere le altre antenne, di quella materia l'ho visto io. Vabbè, ma Massimiliano lo usa perché c'ha diversi apparati in macchina, capito? Sì, no, stiamo parlando di altre cose, naturalmente sono molto più piccoline di altre. Comunque, se avevo riscosso, se mettessimo nelle camere di metro, come si suol dire. Chi ci è rimasto? Antonio, ci sei ancora? Papà, già ci sono. Che ti avete dato? Mi hai sentito poco la cosa? Io ero che stavo parlando con te e con Massimiliano, è vero? Quando? Ti ha acceso un attimino, ho detto che stavo fischiando e sei entrato tu avanti, mi hai detto, ieri notte verso le 8 per me, è vero? Ah, sì, me lo ricordo. E non ti sei accorto di niente? Sono entrato un minuto, stavo salutando il tanto Massimiliano, non sapevo chi era, poi lui si è presentato, ha detto chi sei Massimiliano, ha detto blu, e mi ha messo nella corrente, di colpa di lui il coso, il baracchino si è spento piano piano, siccome l'ha rimettato le piste lombe di corrente, ha detto che si rende, tum, è mancata la luce. No, ma è mancata la luce. Sono una ore, a parte è rimasta spezzettino dove abito io è buco. Cioè tutto sempre illuminato, la luce delle strade, la via vicino alla mia, tutto illuminato, il palazzo mio è palazzo che c'è vicino, è una linea unica. Non ho mai capito, infatti abbiamo telefonato per il guasto e ho detto proprio la via dove sto io, è zona limitrofa. Due palazzi, scusa, anzi tre col mio, tre palazzi spenti, tutti gli altri vicini e tutti accesi. Si prevede entro le 10 di ripristinare la tagliata di Desi. Ragionavamo, io ero andata a mangiare, siccome sapevamo anche cose che c'era al forno, c'erano dei gamberi, cosa cavolo c'era fatto al forno, ho detto dammi la comunità la roba, anche se non è casa se la mangiamo la stessa. Poi, meno male, c'eravamo le lampade d'emergenza, piano piano poi verso le 9 e mezza è tornata la luce, però nel frattempo già avevamo mangiato. Senti, non ti scherzo del caso. C'era qualche anche a me che ci aveva invitato in casa al cenone, non so come ti ha fatto. No, ma stava attaccato al gruppo, avete proprio, non l'hai. Perché c'era l'officina, c'era una 16 kg, un altro piccolino, però non andava, infatti ho già deciso tra poco, non so tempo mi faccio un'altra disposizione, metto il gruppo letto, c'era quello piccolino da 1500 watt, me lo metto fuori terrazzo, con una tettoietta, un cavo che è dentro casa, era dove è caduto, però ti ha attaccato. Ti manca spesso? No, manca spesso, però quando ci sono temporali furti capita. Ti riattacca, poi dico così, dovrà attaccarci, l'altra volta non sai quante ore è rimasta al buio, alla fine ci siamo addormentati, è tornata già a casa di 2 minuti. Allora, ti conviene metterti un gruppo elettrogeno? No, avevo queste lampade a neon di quelle rettangolari, l'avevo comprata alla città mercato di Udda l'anno scorso. Ma tu hai la luce del fa, una cosa allucinante, ricaricabile, l'avevo pagata, hai pari 10 euro, una bomba. Sono buone già. Già, cos'è a LED? 60 LED, guarda, avevo una officina che ne ha 32, ma neanche si vede, dopo tra questa forse le LED sono molto più potenti, non lo so, ma fa una luce, l'ho messa in cucina in alto, sopra il pensile vicino, ti illuminava tutta la cucina al giorno, ma proprio una luce impressionante, e che LED molte volte non gliela fanno, forse questi sono più potenti, quella che c'è l'officina LED che ne ha 32, molte volte mi ha preso la cosa, non si vede quasi niente. Sono abbastanza furti, sto pure la lampadina a LED, questo. Cosa fare così se c'è il posto? Se lo metti uno piccolo, 1500 o 1200 watt, voi già ce la fanno. Sì, già lo so, non dico che ti attacchi il forno qua così là, però per accenderti le lampadine e magari la televisione già ce la fai. Stiamo monopolizzando, avanti il Falchetto. Avanti Gian. Grazie, no, ce l'accetto. Chi è rimasto per questo? Aspetta, Gianni, avanti. Sarà tanto morto, l'Apparition. Già ci sono io, già ci sono, sono sempre in agguato. E intanto che faccio un po' alimentatori oggi. Dove stessi mi hai andato in affanguarla? Non mi ha impressionato perché non si è spento subito il baracchino, è mancata la luce. Però il baracchino, siccome c'hai, come si chiama, il condensatore di un bel grosso di fuoco alimentatori, si è abbassato piano piano, boom, ha detto che su si rende. Perché era mancata prima la luce delle. E lui ha continuato a trasmettere per qualche secondo. Meno male che c'ho l'altro l'alimentatore, quello che mi ha ordinato. Casa mia infatti fa l'alimentatore poco fa. Già me l'hai detto, no, ma sempre Swissi. No, di quelli di vecchia generazione, da 10 Amper Cuisine. Cazzo, Natale, se attacchi una cosa un po' più grossa, li sciogli, beh, dei gusti, quello va bene per cosettine piccoline, diciamo per lo sciogli, vabbè. Lei che mi ha salvato è questo qua, che è in zona di Sassari, non so chi sia, c'è il numero di telefono, vuol dire, lo guardo, ne stanno uno da 40 ampere, quello della ZG, cioè presente, quello il più grosso che fa, che costa roba di pari 250 euro da Fusaro, 81 euro. Sì, già ce l'ho anche io la 40 ampere della ZG qua. Però la 10 che c'era attaccata a cosette, c'erano attaccate lì. Cazzo, ma dove si stava già partendo? E praticamente, adesso lo faccio controllare a vedere cosa c'è. Non è possibile, no, fra lì. No, che c'è attaccato il fusibile, da quella di controllare il voltaggio e da 60 volt. Ora è mezzo freddato, mattinale è partito. Capitina. Se il transito li metto nuovi, tutti e due. E lo facciamo andare. Me lo uso da laboratorio quello lì. 3-1, se lo vuoi, Salvatore, Natali, come ti diciamo, a Torino di Ugine dice una cosa mostruosa, un'autocostruita, però le manca un componente che deve mettere, non so cosa cavolo c'è, ha detto, se lo vuoi mi vede te lo bidi, la cosa non l'ha detto. Sì, ma a me non me ne frega niente, se me lo aggiusto me lo aggiusto per tenermelo qua, per metterlo sul banco, tanto ce li ho due, una da 40 e una da 30. Oh signore, io vi saluto, andrò a mandigare, sono attaccato al baracchino, non sempre continuo, motore 23 minuti da quando acceso, fate un conto, anche se ci sarà stata un'oretta di pausa, vi saluto a tutti, dai, e rinnovo gli auguri a chi non li ha fatti, ciao Pierpaolo, ciao Antonio, ciao Franchetto, ciao Gianni, ciao Natalino e tutti gli altri amici eventuali in ascolto, ho preso il portantista, ciao ciao a tutti, pure le da parte mia. Ciao Roberto, vorrei che ci sentiamo. Quello non c'è più. Ciao Roberto, ci sentiamo. Avanti, perché? Ciao Roberto, buon venerdì, ci sentiamo. Ciao Roberto, ciao, ce la raccontiamo le prossime. Ciao, ciao Roberto, le prossime. Ciao, non ho capito cosa hai detto tu, che quando vi salutano perché ti hanno parlato sopra, lo hai detto? Cosa hai detto Gianni, non ho capito. Non ho capito lunedì, non pensate se ci sono altre cose. Vabbè, salutato la parte mia. Ciao ciao a tutti. Cali dopo Roma, vieni fuori. Sì, adesso un po', adesso. Hai sentito a Roberto, ti ha chiesto che cosa hai detto. Salutato, gli hanno risposto gli altri per me. Io salutato, gli ho detto buon correntino, beh, ci sentiamo. Abbastanza. Sono stanco, ma nello stesso tempo non ho voglia di dormire. Tu rimani impassibile già, fregatene. Non ho voglia, non ne ho voglia. Ah, non ne ho voglia di dormire, non ho capito, ho voglia di dormire. Gaba. No, non ne ho voglia. Comunque, ragazzi, ho provato a piano per un'anima viva, eccetera, ma come ancora lo intendo, sicuramente come ti chiamo per rispondere, invece non già. No, io avevo per una certa ora, fino al dopo le 6 avevo gente a casa, anche oggi già. Ehi, gaba. Vabbè. Pazienza, sarà per un'altra volta, volevo provare. Capa, io oggi ho acceso, che ora 6:30, c'era un attaglio che volevo fusibile. E poi che ho fatto un'altra sospensione, sono andato al computer, però no, ero sempre sul 5, non ho sentito nessuno. Va bene. Antonietto. Scappa. Eppure non potevo accendere perché c'era gente, quindi non ho acceso, poi mi sono anche addormentato per un po', così. Sono oggi in festa? Scappa. Adesso speriamo che siano finite queste feste di Magnus. Come fanno, beh? Quella non l'ho mai festeggiata, io. È una festa un po' così. Non un po' scialba, non mi dice nulla. Perché la festa è tutte le donne. Sono tutte befane, Le befane sono che ci fai? Sì, sempre befane, io. Sani, non festeggiano le donne perché appunto sono le befane. Sì, quando ero bambino, vabbè, aspettavo la casa, la befana, sempre. Quello lì sì, ma poi no, è una festa un po' così, si passa liscia. È la festa che si passa travagliando in manco, ma è buona. A chi non deve destinare, se no prima gli travagliava. Sì, infatti, cioè è vero che l'hanno ripristinata non da molti anni, ed è festeggiata anche quando, cioè, a chi lavora magari un giorno di riposo, quando è dentro di settimana, ma con non capo in Padre Domenica, non è più festeggiato. Ma dite a mia moglie quanto costa adesso la tassa del baracchino. Come faccio a dirlo? Devo telefonare. No, diglielo qua, che qua è in camera con me. 102 euro. Già, pagava. Perché se non è possibile, la 12 c'è 102 di codi. E cosa vuoi che ti dica? Questo dice l'anticodice che è permesso a pari con altri paesi europei, in questo caso con l'Europa, si ha rotto le scatole adesso, tutte quante le cose per il paese europeo, e intanto se lo vanno a pesca. Sono sicuro. Ci mettiamo tutti d'accordo, non le paghiamo. Quello ci sto. Il piratone facciamo. Me lo fate vedere alle 7 ore, però lo possiamo fare adesso. Ma se per il piratone non devi togliere l'antenna, anche se non sei buono e acciappati. Vabbè. Io posso avere l'antenna, non avere l'apparati, cosa vende? Mi nascondiamo la parete, facciamo in caso nel muro la parete finta. Elettronica magari, che sempre col telecomando, beh. Che ti costa più di 102 euro. E lì c'è poco ma è sicuro. Ah sì, io no, mi dai, che ci frega, paghiamo tanto, paghiamo altro, paghiamo anche quello. Io domani vado alle poste e mi informo, vediamo un pochettino, cosa mi dica. Ma venissi, non già niente ancora, lì c'è il caso tu le domande, sì. Oggi c'è la pioggia, vedi, non sai ma quelli portare il video, dai voi. Dica, quando avevo iniziato ero andato a vedere quando se sapevo quando portavo la tassa, perché tutto mi diceva, no, dove si buio avevo aggiunto 3 euro perché è aumentato, invece hanno aiutato, non sapevo neanche se portavo i video. Qua io vado direttamente all'ufficio predisposto, non è che vado così allo sportello. Vado al piano dove c'è scritto radio telecomunicazioni, vado a chiedere a vedere cosa mi dicono, se è vera questa cosa, perché magari su internet possono mettere qualche cosa che non è vero e poi spacciarla per loro, tu paghi, fai il rilasciamento per quel fatto lì e poi ci perdi i soldi, non è giusto. Capa, questo io non lo so. Io qua parlo della gazzetta ufficiale, che è uscito dalla gazzetta ufficiale, è datata al 23 dicembre 2009. Io quello che ti posso dire è quello che c'è scritto qua. E poi, nella realtà, cioè, se c'è scritto comunque, io penso che non mettano la gazzetta ufficiale una cazzata. Vabbè, telefoniamo a Cagliari, anzi che è più sicuro, telefono via Brenta direttamente a Cagliari, chiedo della signora e chiedo a vedere quanto costa la tassa quest'anno, perché vogliamo saperlo, c'è stato aumento, no, un aumento non è possibile per fare, secondo me che un aumento passa da 12 euro a 102 euro di colpo così, è una birata in giro. Ci sono delle cose che a noi ci sembrano strano, comunque, se tu per esempio, che ne so, potresti chiedere anche a qualche allevatore quella benedetta pausa sul latte che gli hanno messo, come era la grande beffa, che sono passati per ogni capo che hai, per ogni litro che hai, prodotto di più che paghi 250 euro, non è una cosa che fa schifo. Eppure gliel'hanno fatta, chiedere alla lavoratura a vedere che cosa gli hanno fatto, che li hai visti a protestare tutto quanto. Beh, quelli invece che mettere la multa volevano premiati perché producevano di più, li hanno tassati perché hanno prodotto di più, ma dove ci sta? Boh, io non so perché mondo sarà andato a finire. Appunto, e quindi non è che niente di strano, anche quella, se tu hai capito bene, è per le normative europee. Le leggi europee siamo morendo buone mondiali, Vabbè, io vado a Scimacca di Nigeria e telefono a Cagliari. Poi, quello che mi dicono a Cagliari, io faccio il rilasciamento, devo fare lì. Quindi, loro lo sapranno. Io penso che lo sapranno. E penso proprio di sì, ne dicevano loro i soldi. Ma lo sapranno sì. Anch'io avevo Ma no, io ritrefo, ho fatto dei miei... cioè non è che... poi mi metto il dubbio che ho lasciato più su e non mi ritorno. È una cosa rabbiata in giro. Invece chiedo a loro, loro mi dicono di giro, io faccio di giro. Poi se c'è un aumento li faccio e il resto che devo pagare, glielo pago con l'altro versamento e via. Sono cose mai sembrano strane, non sono strane come sempre, quello anche è vero, però meglio sapere di sicuro le cose. Poi intanto abbiamo il canone che non c'è mai niente in televisione per guardare un telegiornale quattro cazzate e quindi lo paghiamo lo stesso. A fin dei conti io non ho altri dubbi, ma pagherò. Non sai che il canone di televisione, se vuoi adesso lo puoi, puoi dare a Disney. Sì, non è così, no, cioè non è così facile, però ecco. L'ha dato americani alla Disney, la disdetta, me l'ha detto lì, a me. E non guarda i canali Rai? E non li guarda, guarda gli altri, guarda, tanto ha detto lì non le mettevo mai, guarda con canale 5, Italia 1, tutti i programmi. Rai non le guardavo mai. Ma non lo so, perché mi sembra che... deve portare la parecchia a fare una certa cosa, ma non prenda più i canali Rai, perché so che l'aveva fatto uno, ma non aveva prendere i canali Rai. Non lo so. Dopo io lo si può, se fuggi, se ne piglia una fermata da grasso che è su. Ah, boh, non so com'è, è tutta una cazzo, già. Tutto un casino, riprende Natalino. Domani chi su anda posso il versamento io. Allora domani? Perché non posso domani il versamento. C'è tempo fino al 30, Allora io lo voglio fare domani, boh. Ma domani è nulla. Insomma, sembra un picazzato, dai. Ma domani è nulla, lo faccio il pirata. Luogo, se viviamo adesso cercoso di pagarmi questa qua, di tassa, magari prossimo anno è 2,50. E tu comincerai a dire già che è troppo, ma vai troppo. No, io non ho detto niente, è troppo, troppo è troppo. Però lo vuoi fare? Mi sembra, vabbè, no, voglio solo informarmi, se poi c'è da pagare si paga già di voi. Cosa devo fare? Se posso pagare la pago, se non fermo tutto. Ah, vabbè, quello è poco ma sicuro. Uno se vede che ce la fa a pagarla, la paga, se no, boh. Io ripeto, la pago perché no, non ho altri hobby, non ho altri hobby costosi, non ne ho, quindi vabbè, la prendo come, che per esempio, non ne so, come altri che vanno in piscina, che pagano 120 euro al mese addirittura, 100 euro, 110. Quest'anno, ma Manuela ha fatto latte dolce, lo vangato, poi è stata lì a Camopolino un paio di giorni, poi non ci è potuta più andare e poi non ci è potuta più aderirsi una piscina. Era diventata brava, Manuela era pronta per farle gare. Ma scusa, ma per bambini e per adulti no, perché siccome non sono la gente che ci sta andando. Non lo so, per adulti c'è lo stesso prezzo. Comunque per loro è molto meno. Vabbè, comunque non è quello il problema. Il problema è un altro. È un altro che mi sembra una cosa eccessiva che abbiano fatto. Una cosa troppo eccessiva. E poi se compensi di farmi pagare, ragazzi, invece che 12 farmi pagare 15, farmi pagare 20 e ci sto ancora. Ancora ne so, questa è sempre per la cazzata delle normative europee. Comunque anche andare in piscina 40-50 euro al mese per un bambino, anche da capolano sono un mese di nao a tessi, vabbè, però cazzo, non lo so, ma cosa vuoi fare, io la pagherò. Beh, no, la pagherò anche io sicuramente, non c'è problema, però adesso sto discutendo perché è una cosa che non mi sembra giusta, tutto lì non è che sono di pagare o non pagare. È questione che non mi sembra giusto che abbiamo fatto così, punto. Non è giusto, no, per me quello. È chiaro che non è giusto, infatti in tutte le cose c'è sempre ingiustizia. Ingiustizia che non si sa più che cosa fare, se alla fine caso va a mettere meno meno con cose di Dio, ma fa culo a tutti, mille. Se sarà ridotto un caso è sicuro tra l'altro la mammetta. Se invece che paghi per poi avvelenarti il sangue, ti umiliano, ti fanno, ti rompono le palle, te dico tutti i colori, insomma, nessuno ci pensa due volte. E poi io devo pagare per avere anche molto attiva, che non paga neanche adesso che lo dici io, la tua immaginete. Non è che ci proteggono, cioè quelli pagano la tassa e hanno anche diritto di avere una certa protezione, no? Quando succedono queste cose qua, invece no? Allora, quello è il colmo, che? No, io non la stavo dicendo. Sì, quello è il colmo. Già non pagavate, lo dici io. La portante ce la muovevo a te, si beva pure se tu mi paghi tanti dubbi. Allora, non è che stavo potendo la risolvo per sede. Siamo nel mago d'ordine, e la portante me la muove, non vorrei essere protetto, invece. Se la pago, l'ho pagato per anni e anni senza utilizzarla. Se la pago, ma davvero, se ci penso adesso quanto ne ho pagato io, in anni anche che non l'ho usata. Cazzo, se la pago, portati istantaneamente. Thank you. era uno spettacolo. Era un maestro canugliano, e come sta Giovanni a parlare ha giocato. Ha giubilato e ha messo dentro la denta lì, tutto quanto, manco un pezzo pure non ha giocato. Non è manco festeggiato a mezz'ora. Manco male male, me ne ha fottito. Figurati. E tu mi vuoi far ridurre così? No. Ridurre così, neanche cosa mi sono messo con ridotto io. Cazzo, faccio compreso. Se non ho una canna non devi fare queste cose. Se la pizza e basta. Tu lo festeggi anche. Lo fa perché gli altri componenti della famiglia vogliono andare, cosa fai? Di mandare giù? È normale che ci vai, no? Io molte volte faccio dei sacrifici, però sono cose che sono sempre piaciute anche a me, dico la verità. Questa volta, dico la verità, ero un po' fermato dal fatto della gamba di stare in piedi, però a me mia moglie mi ha detto guarda, le chiavi di casa ce le hai, se tu non te la senti stare più, prendi in piedi, vai, ti posi in macchina e vai a casa e poi ci troviamo lì, tanto il posto con Massimo ce l'ho con fratello. E quindi io potevo anche andarmene a casa, ma l'ho aspettata, sono andato in macchina ma l'ho aspettata. Chiara, chiara. Vabbè, a me non piacciono queste cose, quindi se a te piacciono, liberissimo di fare quello che vuoi, siccome a me non piacciono non ci sono andato, però io potevo anche sedere in macchina e andavo, tanto non c'era problema per quello, però a me non mi piace, né quindi io... No, a me già mi piace. Mi sono sempre piaciute le... solo che se non stai bene, stare in piedi non fanno più di tanto. Io me ne sono andato due calzoni prima, non è che me ne sono andato molto, molto prima. Due calzoni, da anche abbiamo cominciato a barriare. Il traiente correndo in fusa. Sì, me lo posso immaginare. No, a me non piacciono. Se una cosa mi piace, vado. Capito? E non c'è Cristo. Però se una cosa non mi piace, non mi piace, basta, e non vado, lo sa, ui, non ha di guana, e di stracco. Mi ha fatto fare un culo quel coglione, che adesso se ne è partito, no lui, ma se no lunedì come mi avrebbe telefonato, tanto io il giorno ho finto, l'avrei mandato a fanculo mio il dottore, se lo mando a fanculo, quando torna a cazzo, se non sono ancora andato via, un fanculo da sottoscritto è assicurato. E dopo non ti chiamare più, sta buono. E a cazzo di Baffuzzi se non mi chiamare più, però a fanculo lo mando. Cava, ma tante volte dobbiamo stringere i denti, Natali, non sempre si può fare quello che si vuole, sai quante volte mi è venuto la voglia di farlo e non l'ho fatto per salvare il posto di lavoro, tu non hai idea, avanti Pierpaolo. Roberto quindi voleva rimbalzare su di me, no, ma stato che non è altro. Speriamo che ci ascolti così lo senso. Perché tu mi hai cascato? Natalino ci è cascato. E allora, mi sono comunque cascato, mica se sono andato subito su internet a baitarmi. Si sta giudito domani o mai più. E cioè domani è domenica, non lo posso fare un versamento, anche domenica. Ma chi li vuoi comprendi, no? Domani non è sabato. Non puoi fare un domenica, Domani mattina le porte sono aperte dalle 8:10 fino alle 14. C'è domenica, domani. Domenica, non Allora, 2 gennaio adesso. Faccio già vado a vivo. Come il momento con che muro che siamo, non ce la può fare, ma che domani sono abbastanza di soldi con sicuro, io ci avvengo il primo, oggi è il 1° gennaio, venerdì, domani è sabato 2 gennaio, caro, le porte sono aperte, non ti preoccupare. Sì, vabbè, così andremo a farlo. Già, se devi andare domani, allora buscami quel cazzo di, come cavolo si chiama, di versamento che me lo compilo e andiamo a farlo. Ti ho detto che è già in casa, il versamento, sul telefono poi mi ha ritirato, ho detto già messo da parte. Ehi, vabbè, domani così andiamo e lo facciamo. Domani sera sarà chiuso. Domani mattina, cosa cazzo domani sera? Ah, tu non lavori domani mattina. Facciamo, dunque, cosa lavoro io domani mattina? Lunedì entro a lavorare. Ah, è vero, va. Facciamo andare domani mattina, allora. Andiamo alle poste del monte, ma chi tu parlo? Io ando qui, tu, Comunque, chiedete a vedere se c'è qualche piccolo momento, perché qualche piccolo momento ci può essere. Sempre 12 e per parte. Mi l'ha detto Falche? Sono andato all'ufficio io ieri, o fatti ieri che era, e mi hanno detto di versare sempre 12 euro. Mi l'ha detto Falche, non ti ho capito. Sono andato all'ufficio, mi ha detto di versare 12 euro. Va bene, allora basta. Lasciatevi a Rosario. Esatto. Cava, va bene. Buono Roberto, domani piglia a casa, contatti qui e là, cioè, come vai, bomba. Perché poi non gliel'hai detto che non era vero? No, si è chiuso. Che io con mia moglie stavamo confabulando e gli ho detto a mia moglie, secondo me mi sembra strano, secondo me non ho scherzo di Pierpaolo, mi chiede se dove è qui. E lei mi ha detto, sì, sono bisogno di Barubu, ha detto, sicuramente sono bisogno di Barubu, ha detto, no, ma io guarda, io mi formo, non ne pago così a vanvera, magari uno va, 102 euro, davvero non è così, io mi formo, gli ho detto, va, mi formo a Cagliari, se è così poi... E invece se mi ha detto che così sono un noi vogliamo essere soldi a parte. No, ma è andata, perché adesso domani Roberto, ma io lo voglio cercare poi domani sera, ma niente, ma non si intende, grazie di lo pensare. No, lo sai cosa c'è per Parma? Che non è solo se fosse stato, va bene, 102 euro, non è solo quello, è che va, mi faccio 3 bolli da pagare, assicurazione, un sacco di roba, tutte spese fisse, spese di scadenze, no, altra roba, ma spese di scadenze, di bombe, tu sai benissimo che quando si fa queste spese, caro le televisive, chi si chizzasse. Roberta, aspetta, bubu. di sul telefono a tutti. E via. Ecco, domani Natale abbiamo una cosa, prima andiamo a pagare i busi, dopo passiamo la Roberta di gli avessi fui fatto. Va bene. Per pagarla la Rai la pago i canali che guardo. da Roma, ragazzi, te la per qui. Ah, ma sei a pagare altro ancora. Io voglio quella lì, se devi pagare un'altra casa, poi io la televisione con la tessera, come te, ma a un momento, un media, sette cose. Avevo comprato la prima, il primo decoder con la tessera, e pagavo 30 euro. E poi lo dovevo caricare, però mi accorgevo, andavo a vedere qualche film, esclusiva, prima TV. Da poi di dice, quindi il diritto lo pone nel canale 5 normale, ma se si firme. E dice, io sono scemo che pago 4 euro a ogni film. Ma dice, non lo firmo, se non adesso mi affitto il DVD, me lo guardo quante volte mi pare che piace. E poi se non torno, pago caro, appena un euro, la seconda pagavo, vero? 1,5 mi pare, la mia adesso del noleggio. E se me lo guardo quante volte voglio, lo tengo quante volte voglio, e pago molto meno. Dice, 4 euro. E poi ti dico, quante si vede, non vedi che la canale 5 normale. Ah, così, aspetta la testa, buttala via, vai. Così, dai, io. La pagava. Così, sono una sei ladri. Allora, sentito, ma, Gianni, mi ha sentito, sì. Ti ho sentito, per fa, ma sto cercando di sbrogliare questo cacchio di cuffio, un attimino il filo. Cava, cava. I primi sei mesi ho scaricato il riporto, non mi sono accorto che avevo i film, diciamo, su canale 5 normale, e ho detto, ah, così funziona il furto, e allora prende la testa e butta la via, vai. E se c'è la parità, uno mi lavora con quei film, non vengo normale, vai, vai, mi ha abitato ai giro, mi sa, ma te sì. La prima, positivo, ora c'è vero, piano. E poi spendi anche molto, molto meno. Molto meno, avanti che vado ad entrare. Sì, vai, che sto facendo quei vecchiaci, sentiamo le prossime. Salutone, buonanotte, allora, Natali, ce la riassoltiamo le prossime. Avanti, piano. Chi è lo sai, Natali? Via? Chiudi a sonno. Va bene. Buonanotte, ce la riscontriamo domani, allora. Ciao. Buonanotte, Natali, ce la riscontriamo domani. Ciao, Natali. Domani mattina ci sentiamo per telefono, va? Ciao, va bene. Stanno scendo giù, così te lo compilei. Chi da quello me lo paghiamo. Pagato. Che posto è andate? Quelle del monte. Ma che? Dimmi. Hanno messo un canale che parlano di cultura, di cose belle. Ci vuole la tessera però, eh. Dove? Si chiama Glamour Plus. Miziani già lo sa, parlano di molte cose interessanti, fanno vedere film interessanti. Comunque, Arto, se ti interessa, ho un'amica che ha rilevato una videoteca, praticamente interessava il locale solo e cosa. E gli ha lasciato tutto, gli ha lasciato scaffali, film, abite, fai, siamo i hai capito, qualche? E che prima in vendita ce l'ha già? In vendita, ha detto che non sa chi ne ha sui 500. Sì, e che cosa? Per me porno? Tresor Ruschi, Buonapuzzi, Rocco Siffredi, tutti chi si... porno tutti. Questo qui praticamente ha preso prima questa videoteca, no? Lei ha preso il locale, ha preso questa videoteca, non gli ha pagato l'affitto e quindi... si è pagato l'affitto con i filmini, però li deve rivendere, sono nuovi di zecca, nuovi. No, cioè, a me no, non interessa vederli, no. A me se mi mandano le attrici sono più contento, ma per vederli così nel DVD no, non mi ispirano. Ma vieni a vedere, le attrici sono sgarasciate. Consumata, rigiambata e adesso questa qui è l'ultima.

perché più di tanto in casa non riesco a starci. Mi prudo, come non è più forte di me, mi sento chiuso, mi sento... E dopo che sto due giorni così, mi rompo un po'. Quindi te le guardi quando ti porta l'una, ti dice, per dire, ti dice, qui su questo sito trovi, eccetera, eccetera, tu vedi, clicchi lì, sull'indirizzo, tracca, e vedi cos'è, e comincia a sfogliare, sfogliare, sfogliare, sfogliare, vedi tutto quanto, poi, ti danno altri consigli, tu vai e leggi in tutte le cose, le voci che ci sono, e boh, c'è da vedere di tutto. Ho visto una collezione allucinante di apparecchi antichi, ma belli. Io sono belli da vedere. Non è sì, ma ci vuole posto per tenere in casa, che non è sicuramente neanche più. C'è la regga a casa, mi vuoi dire, mi si guida lo banco, a me hai... Ma via, la una pasta aveva e che funzionava a me, ve lo so che va meglio la telegrafia nuova so. Ha funzionati, non dire che non funzionava, ha funzionati. Insomma, era veramente uno spettacolo. Poi però diceva anch'io, ma se dei conti cosa me ne faccio? Adesso poi sempre, dopo anni mi sono reso conto, adesso perché mi hanno detto quel cazzata lì l'hai fatto. Sono cose che direttamente non ti interessano, capito? Se fosse stata magari una radio civile vecchia non l'avresti buttata, perché tu avrei un interesse diretto su quelle cose lì e non penso che l'avresti buttata. No, la peggiore cazzata che ho fatto è che poi ci sono state delle persone che mi hanno detto buttata e che adesso non so, io trovavo le fotografie di quel coso. Anche c'è, dipende, perché se è un pezzo che mi manca, ne piace, a qualsiasi pezzo te lo prendo, no? E poi, poi c'è questa persona che ne aveva uno, è un tipo che, di cosa, di Fioristano, come si chiama? Il paese vicino a dove abitava anche la nonna di Daniele, allora come viene in mente, e quello lì, allora, valore stimato, che non lo dava nessuno, valore stimato così da collezionista, allora stiamo parlando di valore lì, poteva essere pagato anche fino a 25 milioni. Ci credo, tante volte non si conosce il valore delle cose e si sottovaluta, non sapendo che magari possono essere cose che costano meno. Oh, vabbè, se lo racconto in verticale perché qui non lo fa, però racconto. Oh, guarda. Io ho regalato, non ho buttato, però l'ho regalata la cosa. E mi hanno detto che quello che ho regalato è lo stesso valeva un bel di soldi. Un bel valore, non pochi. E poi già, pare che questa cosa della telegrafia funzionava 43 volte. E io non volevo e poi sei comprato per notare 43 volte. Completo di trasformazione. Vabbè. Tante volte ti gira le scatole, te ne vivi, magari per roba in chi magazzino che non ti sirvi e vi aromantesci. Magari se avevi lampato qualcosa che non ti sirvi e la vivi lasciando lì, si lascia il dominio. collezionismo, infatti lo so per dire, per collezionismo, ma per utilità non è che non già sai, vai. Adesso ho compito a fare qualsiasi tipo di lettera, in corsivo, come voi questi sono. Che mancava il frigorifero, sono andato a prendere la costa, la Cagliari. Ma è all'entrata di Caglia, di Via Santa Mendrace e la zona industriale di Caglia. Lo so, adesso sono stati fatti svincoli, svincoletti a destra e a sinistra, circolazione, insomma, si siede a potersi andare un po' di disciamaggio. Se voglio andare mi porto anche la macchina fotografica a fotografare. Cazzo, guarda, lì una voglia, io mi ricordo, via Roma, amore, chiusa. Perché non sto ancora, a parte che io non l'ho mai vista a Cagliari, si può dire, perché arrivavamo lì, facevamo il pezzo della fiera e poi entravamo alla fiera. Tornavamo crepati, ma non per il viaggio, no? Crepati per tutta la camminata che ci facevamo dentro la fiera. Prendevamo il mezzo e tornavamo a casa, quando andavo con mamma. Poi sono andato una volta con Liana quando eravamo fidanzati e chi mi ha trovato? Ora stai iniziando anche a strappare. Vabbè, accendo l'altro allora, lui già dici no, se lo sa, rompi direttamente, domani la cambio, va. Tanto è tardi, cioè. Come sta andando adesso? Quando parlo un pochino inizia a fare la pernacchietta. Buona, per parà, ci sentiamo. Infatti stavo dicendo, non l'ho mai vista a Cagliari, che arrivavamo lì via Roma, andavamo alla fiera, poi tornavamo a casa. Non è che stavo lì, giravo nel paese, cose, la città, eccetera, eccetera. Non l'ho mai vista completamente. Capo, no, io già, quello che molti mi dicono, gli ho girato abbastanza. Mettiamo tanto a testa di benzina e via. Andiamo a Fimo ba Cagliari. Sarebbe stato di mettere a buttarci sulle moto in benzina con qualcuno se vuole venire in macchina diesel e che si rimette di meno là e si tira di più. Quello sì. E anche con la mia che a gas no, non è male. Ah, infatti mi stavo dimenticando, allora, a gas, a gas ci risparmi tantissimo, a voglia, a gas ti giri tre volte di più, anche Italia non giri tre volte di più di una macchina benzina, c'è una macchina benzina, un pieno, non fa passa, si giri pure. Gappa. No, ma girare, io voglio girare a piedi, voglio vedere, non girare solo in macchina, parcheggiare la macchina e girare a piedi, per vedere, andare, perché io conosco mi da Rinascente e sono entrato, perché sei lì sotto il porticato, quello me lo ricordo, quel porticato che si vede, e non passeggiati da lì, io mi ricordo che c'erano tanti ambulanti, i senegalesi, ungherese di tutto via. Vabbè, ma scusa, perché c'è la macchina e magari fai, ma certo fa a piedi, vedi via Roma, poi c'è la stessa piazza d'Italia, anche lì, la piazza come si chiama, è sacra, torniamo indietro, prendiamo la macchina e andiamo. Solamente ci vuole qualcuno che sappia le storie, perché io quelle non la conosco mai niente. Oh già, tutte le storie conducono a Roma. Non ti critichi da voi, magari può Italia, in Italia, magari forse che ne so, c'è anche, ci sono anche altri quattro comuni da vedere, insomma, lì attorno a Cagliari. Ripeto, c'è il margine rosso, insomma, ci sono dei posti anche belli da vedere, ecco, non si arriva a Cagliari, va bene, sono d'accordo con te, ma se ti metti a fare anche qualche giro, la macchina deve operare, quindi ci muove, non è che vai a capire, un pezzo e poco di chilometri. Vado a fare qualche gita al TCB, lui a Cagliari, arriviamo con le macchine. Sì, tutti i TCB già, e quali tutti? Tutti quelli che hanno la macchina con la lanterna, ci metti a parlare in fila, ragazzi, così si sente bene. Credo che per il momento c'è una presa ardua. Ma almeno ci andiamo lui, là. Noi abbiamo deciso, da noi non siamo mai andati, dall'estate scorsa. Io ricordo. Non so, non possiamo essere in 4 o 5, boh. Andiamo in 4 o 5. Gava, gava. Possiamo, che so, che ero a Massimiliano, Natalino, Antonio, io e tu. E possiamo andare. Infatti. Mi, la macchina Massimiliano è stata di ben incomodi. Pulito, che c'era bello il buco largo. Non ti ho capito però. Allora, quando ne abbiamo tirato la pompa, c'è un buco largo, largo, la sezione della pompa, quando un tubo da 12 centimetri, no? E da 12 centimetri largo, e da lì il serbatoio vede. Era già pulito, già, non c'era niente, niente, niente, comunque è stato ripulito lo stesso. Cappaga. Non c'era niente, nulla, bello pulito, pulito. E è stato ripulito lo stesso. C'è uno, mi ha detto, è andato dal coso, da quello dove ho fatto l'impianto a gas, e praticamente si è gridato a colpire la macchina, dice dove l'ha messo il piede, un rappresentante, l'ho messo a Cagliari, l'ha messo, aspetta che guardiamo il polmone, ha messo i polmoni, tu vedi cosa c'è dentro di porcheria. Non lo posso immaginare, bisogna andare attenti a certi riformati, io guarda, li metto quasi sempre nello stesso punto, quindi. Io, anche io, sempre sulla buti. Comunque, come abbiamo fatto con l'intervento, già era pulito, pulito, pulito, non c'era niente, niente, nulla, manco una cosettina. Deve essere o che hai un buon filtro per la benzina, di quei filtri perché prima di arrivare al motore ti ripuliscono tutto, oppure magari hai fortuna che sei andato sempre un rifornitore buono. Ma figurati sotto la pompa c'è una retina, la pompa dove aspira, no? Una retina grande grande, dove li ha come tutto lo sporco se c'è me, era la pompa vecchia, era sotto dove c'era la retina d'aspirazione, era proprio fatta in bella pulita, non c'era niente, nulla, nulla, nulla, ha detto ma meno male, va, perché di solito io ripeto non faccio benzina da nessun'altra parte, quindi anche quello, qualche delle volte magari ti fermo il rifornitore un po' così. In mezzo abbandonato, tipo che si usasse la secca, e chi, vabbè. Ma beh, non tanto con la sassa, io temo quelli di paese, io infatti quando vado fuori, quando vado in paese, vado a casa del sardo, vado ogni posto, la benzina ce l'ho già, non mi fornisco da nessuna parte, io ce l'ho già. Allora, proprio per quel motivo, perché sono andato meglio, un po' questi rifornitori dei paesi sono rari, abbandonati a se stessi, dai. Vabbè, dice, povertà, che parla però? Verso l'Argentina c'è un rifornitore che la benzina con la tribuzione più di sassi, è un bel caro. Vabbè, io non mi fermo al rifornitore, ancora non lo so, ti veniamo giù, non mi pare, sì, mi pare veniamo giù, mi sarà lì, sì, ma infatti quelli del paese non lo so perché, ma molti meccanici in questi paesi, anche lì intorno, calcolano sempre le macchine o tintasate di bucaria. Sì, è quello che fa, però il rifornitore che dici tu, quando siamo andati all'Argentina, sapevi appunto che ha fatto notare quanto costava la benzina, è un po' più cara. Invece ne approfitta perché sicuramente c'è il turismo d'estate, ma di loro non va da nessuno, sempre deserto. No, quel rifornitore lì se ne approfitta perché è l'unico del posto e quindi se vuole pure la benzina me ne dà i nomi. Ecco qua, non è tanto il turismo. E anche l'estate, avete detto, anche il turismo è l'unico del posto. E c'è anche quello della strada dei due mari. E io so quando faccio il servizio di anticipo che molta gente prendeva la macchina perché aveva visitato un quello lì del paese di Palmaro, ecco, però se ne andava di lì a quella della strada dei due mari, quella di Croce di Giovanni Ambasmi, per intenderci. Ho capito. Questi rifornitori qui hanno il monopolio perché sono gli unici e quindi si va a ripagare la benzina a prezzo loro. Adesso che mi ricordo, infatti, adesso mi ha ricordato una cosa, allora anche quello che ci hanno Campareda, che è l'unico che c'è a Campareda. Anche con lei un giorno siamo passati di lì e mi sono fermato proprio lì, non per morire, per... siamo fermato, naturalmente non mi ricordo per che cosa. Adesso mi sono guidato, ci sono bisogno di avere il cedere, e questa è questa cosa, mamma mia. Guarda, molta gente di quella zona lì viene a prodotto adesso a fare benzina. Molta, ma perché li conosco. Sì, ma lo conosco, allora c'era quello del comune, per esempio, di Palmarola, che all'epoca me lo diceva qua. Dice, guarda, c'era anche quel, non so se l'hai visto, quel bar da macchi, negozio e macelleria a muro. Per dire, non vi sono gommisti in questa zona, andate a sentire, non vi sono gommisti. Scendere io a cambiare la gomma. Aperto sino al paraturbo, Io se parlato un po', quindi posso aprirlo sino a 4-5 centimetri. E non ti va la vento in faccia, ma adesso che mi passa un vento, boh. Le donne, le donne sono con freddo sempre. Sì, c'è cosa? Poi no, che la faccio vedere a me, perché mi sono 30 gradi all'interno, è sempre freddo. Le donne sono così. Va buona, io vi saluto, vi auguro buon lavoro per domani, buon cuore di ciao ciao. Anche a tutti gli ascoltoni, grazie di aver ascoltato e di avervi fatto gli amici di Burro. Ciao, poi ci sentiamo. Va bene, ciao ciao.